Medea, figlia di Eta, del bel Giasone si innamorò. I due dopo il primo bacio decisero di stare insieme per sempre, ma per farlo servivano soldi, ed Eta era vecchio e sordo. Se mai si fosse accorto, già sarebbero stati lontani. Il ragazzo rubava i gioielli e lei rimaneva di guardia, ma suo fratello si accorse di tutto e allora spietata lo pugnalò per fuggire insieme al suo amato. Carnefice ingenuo e felice, la vita trascorse tranquilla ed in 3 anni gli diede 3 figli. I soldi finirono presto, ma Giasone aveva uno zio, grande banchiere di Iolco, pensa che bella l'eredità. Medea era una maga, sapeva ingannare la gente, plagiò le figlie dell'uomo e queste le uccisero serenamente. I gendarmi archiviarono il caso, morte accidentale. L'eredità fu divisa, Medea e Giasone fecero festa e a Corinto comprarono casa, una villa con vista sul mare. 10 anni che stavano insieme, senza bisogno di nozze. Glauce era giovane e bella, il padre creò un teo opulento. Giasone senza rimorsi lasciò Medea e i suoi figli. Al ricevimento nuziale arrivò uno strano regalo, una sottoveste stupenda. Glauce la destinataria, quella medesima notte la sposa indossò la veste. 3 minuti ed esanime cadde dall'abito avvelenata. Vendetta era compiuta, sì, ma Medea non era contenta. 3 cose le ricordavano l'uomo per cui 3 volte uccise. Aveva dato Tessalo, Fere e Tisandro, li uccise senza batter ciglio, li uccise sorridendo. Si narra che ancora oggi Medea sia in qualche luogo, frustandosi il corpo con forza, maledicendo di aver amato.